L'intelligenza artificiale è un'opportunità straordinaria o una minaccia? È etica? È sicura? E noi siamo davvero pronti a convivere con questa nuova realtà? Oggi parleremo di rischi, di responsabilità e dei dilemmi morali che nascono quando si usa l'intelligenza artificiale. Benvenuti su GPTissimo, il podcast che esplora il futuro con l'intelligenza artificiale. Ciao ChatGPT! Oggi parliamo di temi delicati. Te la senti di affrontarli? Preferisco rimanere su risposte più generali quando si tratta di argomenti delicati. Esistono dei rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale? Sì, esistono dei rischi. L'uso dell'intelligenza artificiale può comportare minacce per la privacy, la sicurezza e l'occupazione. Ci sono anche preoccupazioni relative alla possibile distorsione dei dati, alla disuguaglianza nell'accesso alla tecnologia e all'uso improprio in ambito militare o per la sorveglianza. È fondamentale sviluppare regolamenti e linee guida etiche per mitigare questi rischi. Ma come viene gestita la privacy degli utenti quando interagiscono con te? La privacy degli utenti è una priorità. Quando interagisci con me, non memorizzo informazioni personali o dettagli delle conversazioni in modo permanente. I dati vengono trattati in tempo reale per fornire risposte, ma non vengono conservati a lungo termine. È importante che ogni piattaforma che utilizza il mio modello adotti politiche di privacy chiare e trasparenti per proteggere le informazioni degli utenti. E invece i pregiudizi? Come si affrontano i bias nei modelli di intelligenza artificiale? I pregiudizi nei modelli di intelligenza artificiale sono un problema serio, poiché i modelli imparano dai dati con cui sono addestrati che possono contenere bias umani. Per affrontarli, gli sviluppatori lavorano per migliorare la qualità e la diversità dei dati di addestramento, cercando di identificare e ridurre i bias durante il processo di sviluppo. L'intelligenza artificiale può essere usata in modo scorretto o può causare danni? E come si possono prevenire eventuali abusi? Sì, l'intelligenza artificiale può essere usata in modo scorretto, ad esempio per manipolare l'informazione, violare la privacy o creare contenuti dannosi come disinformazione o deepfakes. Per prevenire abusi è importante stabilire normative rigorose, garantire la trasparenza nelle applicazioni AI e promuovere un uso etico. Inoltre è fondamentale sviluppare meccanismi di controllo, responsabilità e audit per monitorare l'uso dell'intelligenza artificiale e sensibilizzare gli sviluppatori e gli utenti sui rischi potenziali. E secondo te l'intelligenza artificiale può sostituire del tutto gli esseri umani in alcuni lavori? L'intelligenza artificiale può certamente sostituire gli esseri umani in alcune attività ripetitive e automatizzabili, come compiti di routine o analisi di grandi quantità di dati. Tuttavia, per molti lavori, in particolare quelli che richiedono creatività, empatia, decisioni morali e capacità relazionali, l'IA non può sostituire completamente l'essere umano. Piuttosto, l'IA può essere uno strumento che supporta gli esseri umani, migliorando l'efficienza e liberando tempo per compiti più complessi e creativi. Grazie ChatGPT per questa intervista. È stato un piacere. Grazie a te per avermi dato l'opportunità di rispondere alle tue domande. E ringrazio anche il pubblico per aver seguito questo episodio di GPTissimo. In questo episodio abbiamo affrontato questioni difficili, ma fondamentali. L'etica dell'intelligenza artificiale, però, non è un tema riservato solo agli esperti, ma qualcosa che riguarda tutti noi. Vi lascio con questa riflessione. Possiamo davvero controllare ciò che creiamo? O è inevitabile che ci sfugga di mano?